Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, cari ascoltatori di Radio 24, nel vostro bellissimo sabato mattina, all'inizio del fine settimana, l'idea di come riappacificarvi con la moglie e viceversa con il marito, oppure di cosa tenergli nascosto anche questo fine settimana, insomma i soliti interrogativi con cui iniziano i fine settimana italiani e rapidamente finiscono prima ancora di aver gustato neanche un decimo del piacere che uno immaginava di annettervi. E allora per questo la nostra proposta seduttiva, il vero piacere siamo noi, o meglio, per chi non ha una visione edonista, facciamo così, siamo anche la negazione del piacere, se volete, tutto quello che vi serve. Ma insomma, l'appuntamento con i compari dei conti della Belva, e quindi che vi ringraziano per l'ascolto in diretto in podcast. Fino alle 12 teniamoci in compagnia Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. E più tardi si collega telefonicamente anche la parte imprenditoriale della nostra compagnia di compari, cioè il nostro Cifarelli. Allora, di cosa parliamo oggi per consentirvi di riflettere e dire... Sì, gliela faccio una telefonata all'800240024, gliela do un'opinione al 349-238-6666. Cominciamo come sempre con la rubrica di Mario Seminerio sugli emendamenti della settimana, e questa settimana c'è stato un bel dibattito sui nuovi criteri che la BCE propone per i crediti deteriorati che matureranno da gennaio 2018. L'Italia è in sorta, vedremo, vedremo come e perché e come la pensiamo noi. Dopodiché fino alle 11 ci interrogheremo sugli sviluppi da attendersi Catalogna, Spagna da una parte, e visto che ci avviciniamo ai referendum in Lombardia e in Veneto dall'altra, per capire analogie e differenze sui due referendum in Italia. Quindi potete chiamarci sia per dirci: ma la Catalogna mi sembra una vicenda che si è già afflosciata, quali sono gli errori in campo, oppure sì, voto, non voto, e vi dico perché ai due referendum in Lombardia o in Veneto, anche se non siete lombardi e veneti, per dirci sono utili o non sono utili. Io credo che sarebbe opportuno distinguere, vi dico solo questo, ma ne parliamo più avanti. Non sono affatto due vicende analoghe, né sono analoghi i quesiti, e quindi, però certo, c'è una riflessione comune da fare. Dopodiché, dopo l'interruzione del giornale radio, noi approfittiamo del fatto che oggi è in corso, nell'ambito delle manifestazioni che in tutto il 2017 si sono tenute per celebrare che cosa? I 500 anni delle tesi di Martin Lutero affisse sulla porta di una chiesa a Bitburg, che ha cambiato la storia poi del cristianesimo nell'Europa. Allora, nel 500° anniversario di Martin Lutero ci chiediamo: ma nell'economia italiana, cari compari, nelle banche, nella reazione delle banche di questi giorni, c'è mai stato uno straccio di riforma negli ultimi 500 anni? Ma caro, non è che siamo troppo cattolici. Siamo pretridentini, se posso dire. Naturalmente, diamo per scontato che tutti voi abbiate letto di Max Weber lo scritto fondamentale sulla connessione tra i fondamenti del capitalismo e l'etica protestante, molto ipersemplificato, perché Martin Weber non ha mai scritto poi alla fine che cosa davvero gli si è attribuito. Che abbiate letto di Il Borghese di Sombart, che abbiate letto un bel po' di libri di Toney sullo stesso argomento, e che conosciate un pochino di revisionismo invece di storia economica, che negli ultimi 20 anni ha rimesso un po' i puntini sugli i, cioè non è vera l'ipersemplificazione che il capitalismo si deve solo alla riforma, a Lutero e a Calvino, perché alla fine c'erano teologi cattolici che nel 1200 ponevano le basi, erano francescani, e la domanda diventerà: ma non è che il francescano attuale è un francescano dirazzato? Cioè il Papa, che è un gesuita, naturalmente. Esatto, no, infatti ti guardavo con perplessità. No, i gesuiti camuffati da francescani restano pericolosi, diciamo. Questa è opinione personale. Ma siccome Francesco si chiama, capito? Certo, un'abile dissimulazione. E invece no, furono proprio i francescani nel 1200, vedremo, caro Papa bergogliumunista, orgoglio comunista. Perché mi è, caro Roberto, mi è venuto questo aggettivo un po' strano. Allora, ci interrogheremo, come vedrete, anche su questo. Ma oltre a questo, che cosa, cari compari, vi segnalare di aggiuntivo nella settimana, Mario? Allora, pare che ci sia qualche esponente politico italiano. Allora, io non faccio nomi, perché sennò poi cominciate a rompermi i coglioni dicendo che sono schierato contro questo, quello e quell'altro, e non lo farò. Pare che ci sia qualche esponente politico italiano che invochi, per quanto riguarda la normazione dello Ius Soli, un intervento dell'Europa. Queste sono le stesse persone che in condizioni normali considerano l'Europa invadente, invasiva, prevaricatrice, la stessa Europa che ci impone l'olio di oliva tunisino, magrebino e quant'altro, vogliono l'intervento dell'Europa sullo Ius Soli. Ragazzi, fate pace col vostro cervello. Questo è l'invito accorato che io vi rivolgo prima che questo paese finisca definitivamente a schiantarsi sugli scogli. Oh, caro Alberto. Io ho festeggiato l'ingresso di Warren Buffett nel capitalismo italiano, e in particolare l'acquisto di Cattolica Assicurazioni, 9% residuale, perché è un segnale molto importante. Intanto che Warren Buffett con i suoi stramiliardi venga a comprarsi una piccola fetta di una società cooperativa, perché è uno degli ultimi pezzi di società cooperative quotate in borsa, cioè società col voto capitario quotate in borsa, una specie di diciamo contraddizione in termini. È interessante perché dà un segnale sull'interesse verso un modello di banca assicurazione Italia che probabilmente riprenderà piede nei prossimi anni. Dall'altro è l'ennesima, forse la botta finale a questo modello cooperativo, il voto capitario, a cui ha dato una grande diciamo spallata la riforma del governo Renzi 2 anni fa, e che sta scomparendo. Era una caratteristica del capitalismo italiano, no? Quello del voto capitario con gli amici che votavano in assemblea e che bloccavano le riforme. L'arrivo di questo grande elefante nella cristalleria residua del mondo cooperativo italiano è un segnale importante. Ma magari ritorneremo a parlare delle coppe e di quello che succederà tra qualche mese, quando si tireranno i numeri, vero Mario? Perché verranno normati, finalmente il prestito sociale verrà normato. Bene, forse in fine di legislatura. Ma voi ci credete? Ma in fine di legislatura, Carlo Alberto, quanto manca a Natale? Però i bilanci non manca un granché, e quando devono postare le perdite di valore delle grandi banche, diciamo, affini dei compagni, può succedere che la riforma o meno i bilanci te la impongano. Però qualche professore che valorizzi i pacchetti azionari a un multiplo, a un decuplo, diciamo, del loro corso azionario, lo si trova sempre. Non lo so, è dura quest'anno, anche perché i prezzi dei valori di borsa sono andati dove sono andati. Va bene. Dai, su questo, comunque, questa concessione all'ipotesi che davvero ci sia l'intervento. Vanno a riformare il prestito sociale delle COP a fine legislatura. Scusami, Carlo Alberto. Cioè, scusami. Dove ci siamo svegliati in un altro universo. Non abbiamo preso il caffè. Non vogliamo mancarti di rispetto. Noi apprezziamo la tua enfasi riformista, ecco, però talvolta. Ma l'unica dobbiamo celebrare Lutero se non parliamo un po' di riforma. Ma guarda, che l'unica vera forza riformista di questo paese è la realtà. Per cui alla fine arriva anche quella. Eh sì, perché comunque ragazzi, Warren Buffett che investe in una società a me sembra una notizia straordinaria. Adesso alcuni sono entusiasti, poi tra un po' aspettiamo quelli che faranno il parallelo tra Buffett e Soros, perché sai, qua da un lato invochiamo il capitale straniero, dall'altro lato c'è un complotto pluto giudaico massonico. Ci sarà il golden power del governo anche sulla Cattolica Assicurazione. Insomma, è un patrimonio nazionale. Comunque noi sabato scorso non avevamo tempo, in modo, però fatemi dire questo su questa faccenda del Telecom Italia, che da quello che capisco Gentiloni è molto più astuto come sempre di quanto sembri, cioè si è fatto fare a Calenda la cosa sulla mancata notifica, ma in realtà sul Golden Power, sulla rete eccetera eccetera, ne sta alla larga. Aspettano STX definitivamente, esatto. No? Sta alla larga, fine legislatura, poi si vedrà qualcosa. Cioè Gentiloni è una vera incarnazione dell'eterno ritorno, è sempre uguale. La notizia però è che l'eterno ritorno è sempre uguale in politica italiana. Brilla come un punto di riferimento positivo rispetto certo. Valutiamo le alternative, caro Oscar, esatto. No, perché io dico lunga vita a Paolo quando Gentiloni. Mi dico ma Gentiloni è democristiano, servono pure quelli, non si buttano a nulla nell'inverno del nostro sconforto. Qualche democristiano rappresenta, se non altro, una primavera. Lo dico cari ascoltatori, non perché io mi immedesimi nella nostalgia, ma perché fateci caso, effettivamente è così. E l'Eterno detto, è come se uno dice, si dimentica che ci sono le elezioni regionali siciliane in arrivo, e poi apre Corriere della Sera, pagina 11 oggi, cosa trovo? Bellissima pagina, Eterno, firandelliana, direi, verghiana, quello che volete, De Roberto, ecco. La fuga siciliana dal candidato PD. Alla vigilia delle elezioni 14 deputati regionali hanno lasciato le liste della sinistra perché in 12 vanno con Musumeci. E uno sente aria di casa, sì. I decenni delle elezioni siciliane di sempre confermate con orde di transumanti greggi che dovrebbero essere addetti alla produzione di formaggi, non all'assemblea regionale siciliana, la cui autonomia dovrebbe cadere in fondo all'abisso delle Marianne, per quello che mi riguarda. Bene, torniamo tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupate. Allora, eccoci, da che cosa cominciamo, Mario? Ma dobbiamo parlare dell'addendum della vigilanza della Banca Centrale Europea. Dividendum più che un addendum, multiplicantia non sunt multiplicanda preter necessitate. Ha scatenato una rivoluzione, un'insurrezione patriottica in Italia. Ricordiamo brevemente a chi ci ascolta e non sa di cosa ci arriviamo. Ci arriviamo. Allora, la vigilanza della Banca Centrale Europea ha posto in consultazione un cosiddetto addendum, cioè un'aggiunta al rulebook, cioè l'insieme delle norme che disciplinano il trattamento dei non performing loans da parte delle banche, in cui in essenza e in soldoni e in sintesi si dice che i prestiti garantiti devono essere di fatto portati ad azzeramento entro 7 anni dall'entrata ufficiale nella classificazione di sofferenze, mentre quelli non garantiti entro 2 anni devono essere azzerati. Ora, c'è una pubblica consultazione fino all'inizio di dicembre. L'ipotesi prevalente ed immediata è che queste norme riguardino solamente i nuovi ingressi di sofferenze e non lo stock preesistente, ma la vigilanza ha detto che a marzo valuteranno che fare anche del pregresso. Allora, questa cosa ha scatenato un momento di purissima isteria nella classe dirigente italiana. Li abbiamo visti tutti, è partita l'ABI, ha seguito Confindustria. Notate che io sto parlando dalla radio di Confindustria, quindi o sono libero io o sono distratti loro che non mi hanno ancora chiuso la bocca, oppure c'è un po' più di libertà di quanto si pensi. Sono accorsi in forze gli editorialisti di sistema preconizzando e ipotizzando morte e devastazione. È intervenuto anche il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a dire che i burocrati non devono ingerirsi nelle decisioni politiche, perché i burocrati era stato il termine usato da un tweet di Renzi. Sì, ma oramai va di moda dire burocrati, che cioè, diceva i burocrati che dice, dell'Unione Europea sono pagati per evitare le crisi bancarie, non per crearle. Sì, sì, Europa sì, ma non così, e poi con un pizzico di pomì, non lo so, però alla fine guardate, la mia modestissima opinione, visto che siamo riusciti a leggere degli editoriali veramente lisergici, è che qui non muore nessuno. Siccome avete passato l'ultimo mese, 2 mesi, a dire le banche italiane sono ripartite, hanno abbattuto lo stock di sofferenze con una velocità mai vista prima, lo stock di nuove sofferenze è ai minimi da 10 anni, e adesso improvvisamente di fronte ad una norma che recepisce la media europea, e pare che ci sia un complotto per ridurre questo povero di paese a un cumulo di macerie fumanti. Anche qui la verità è che probabilmente il suggerimento della vigilanza è quello di indurre le banche tutte a dare una valutazione interna delle sofferenze, a trattarle internamente, a lavorarle, a smaltirle e a gestirle. Poi, ripeto, capisco che la materia è esoterica, Capisco che i numerosi ascoltatori che ci utilizzano in pratica come sfogatoio delle loro frustrazioni esistenziali e stanno digitando furiosamente perché hanno problemi con la moglie o con la fidanzata capiranno poco di quello che sto dicendo. Però per me 7 anni, i dati della Banca d'Italia, quindi non del pizzicagnolo sotto casa, dicono che dopo 7 anni un'esecuzione immobiliare o un concordato hanno già dispiegato pressoché interamente gli effetti sul valore di recupero di un prestito. Per quanto riguarda invece i fallimenti, bisogna spingersi leggermente più in là. Ma allora, forse, non converrebbe che l'Italia, fluidificasse le procedure di recupero delle garanzie, mettendo mano alla giustizia civile, anziché dire che c'è un complotto, che i francesi e i tedeschi di notte stanno cercando di fotterci? Perché io ho letto editoriali da parte di persone addette ai lavori che sono semplicemente raccapriccianti, perché non capiscono, ad esempio, come l'ipotesi della teoria dei mercati efficienti, come si prezza un'azione lungo un arco temporale esteso. Parlano addirittura di violazione di una presupposta par condicio tra gli azionisti. Stai parlando di un editoriale di Marco Nado? Sto parlando di un editoriale del professor Nado, che giudico sinceramente sconcertante. Quando il professor Nado vuole misurarsi su questi punti, nessuno fugge. È bene dire anche questo. Per cui forse converrebbe di smettere per una buona volta questi panni di vittime, perché diversamente, guardate che l'ipotesi centrale è una sola, che questo paese è unfit non per stare in Europa, ma per stare nel mondo della realtà. Perché se non vi va bene niente, non vi va bene il trattamento delle sofferenze. Ehi Mario, aspetta, io ti dico adesso, qual è l'obiezione che ci fanno, perché noi abbiamo, diciamo, nel tempo, no, da questa trasmissione e in quello che scriviamo come gruppo di amici, ma convergenti su alcune idee di fondo e altre insieme a noi, non troppi, ma insomma, abbiamo seguito una linea su questi temi qua della regolamentazione europea che ci porta da essere fuori linea rispetto alle posizioni italiane, ABI, Confindustria, Banca d'Italia, dalla BRRD a come si fa la risoluzione delle banche, ai criteri che sono stati adottati presuntivamente persecutori nei confronti dell'Italia su ciascuno di questi interventi, fino a questa materia qua. Cioè c'è una linea interpretativa e loro ci dicono, però, ma cosa volete? Alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo noi oppure no? Su Vicenza, Veneto e in tante altre cose, la loro obiezione di fondo è questa qui. Alla fine le trincee tirate su e su cui Banca d'Italia ha steso in ginocchio tutte le classi dirigenti italiane, le loro rappresentanze o quel che ne resta, hanno ottenuto il riconoscimento dell'eccezionalità italiana. Cioè la BRRD qui non si applica. Parliamoci chiaro. E lo so che però, siccome questa è la controobiezione, ve la giro per dire come si risponde a questo. Beh, io con qualche numero, per esempio, a rinforzo di quello che ha detto Mario, ho qui davanti i dati di Banca Centrale Europea. L'Italia ha procedure legali che sono il triplo più lunghe rispetto alla media europea, all'incidenza dei costi legali per recuperare le sofferenze, che è la più alta d'Europa, al doppio di quella tedesca. Ecco perché. Che Banca d'Italia dice non ci mettete 7 anni. Non so se capite. Ma ho capito, ma non cioè, è colpa della BCE. Tu non la smonti posizione della Banca d'Italia. No, con quei numeri sposto il problema dicendo è responsabilità dell'Italia adeguare alla media europea procedure nazionali. Perché forse, la media, chissà. Secondo punto, caro Oscar, stiamo parlando di un recupero che deve incidere anche sulla parte di conto economico. Sono appena usciti i dati del Fondo Monetario Internazionale. Le banche italiane sono quelle con il rapporto tra costi e ricavi più alto d'Europa, insieme a quelle tedesche. Sono quelle con l'indice di dispersione più alto d'Europa, insieme a quelle tedesche. Quindi mi spiace, ma la BRRD non solo si applica e si applicherà bene, è che non basta prendersela con i presunti burocrati europei per non prendere atto dei numeri strutturali di questo paese. Insomma, però io ho l'impressione che quello che noi abbiamo prodotto in questo paese non è stato un bailout esplicito, non è stato un bail-in esplicito, è stato un assurdo ibrido, classica via di tra mezzo le due all'italiana, forme, sì, che produrrà dei casini giganteschi in futuro. Perché una cosa che i nostri editorialisti di sistema tendono ad ignorare è che questo trionfo delle GACS cioè della tranche garantita dal tesoro, che si tengono consente in pancia alle banche di cartolarizzare le proprie sofferenze, sì, sì, o tenersi in pancia la tranche senior, se tra qualche anno i crediti ammalorati sottostanti marciscono e vanno a erodere la tranche senior, queste banche sono coperte e garantite da chi? Da pantalone. Dallo Stato. Tra qualche anno noi saremo qui, esatto, non noi, qualcun altro sarà qui, Mario, a dibattere, Mario, su tutti i miliardi di perdita. Mario e Carlo Alberto, scusate se vado al dunque. Prego. Il governatore della Banca d'Italia Visco lo confermano per questo, non per un'altra ragione, al di là del netto delle stupidaggini di Renzi che ci ha aggiunto del suo, ottenendo ragioni per la conferma del governatore. Però il punto di fondo, sul quale, lo dico per rendere più chiaro, siamo d'accordo ma in minoranza assoluta, perché noi possiamo fare la nostra funzione, chi di giornalista, chi di professore universitario e consulente d'impresa, chi è analista pubblico come Mario, ma ovviamente noi non rappresentiamo le classi dirigenti del nostro paese. Le classi dirigenti alla fine si trovano a convergere e parlano con una sola voce, come vedete Confindustria, l'ABI, Banca d'Italia hanno replicato la stessa cosa. Il professor Ronaldo, vogliamo credere che il professor Ronaldo non sappia davvero che quello che ha scritto sugli azionisti a venire spiazzati sia un ragionamento come una parete di sesto, di settimo grado, ecco, ovvio. Il problema è che loro dicono ci siamo riusciti a difendere l'anomalia italiana. Io ho questa impressione, magari mi sbaglio. E la posposizione a garanzia pubblica, perché questo è il GACS, è esattamente quello di cui loro sono convinti, che l'Italia deve continuare ad avere ricette di questo tipo, non deve avere tempi certi, non deve avere procedure certe, perché il credito deve rappresentare una forma di primo mobile nella vecchia concezione del mondo, nella quale lo Stato ed eccezioni di Stato devono essere la norma. Ecco, è un po' così. Non lo so, guarda, il 2018 sarà un anno in cui di 300 banche cooperative ne rimarranno 2-2,5, avranno crediti deteriorati purtroppo molto superiori alla media, e questi crediti deteriorati dovranno in qualche maniera essere trattati. Adesso vediamo come escono le normative per l'anno prossimo, e purtroppo i numeri, cioè, sono quelli, capisci caro Oscar? Io trovo che comunque questo paese un paio di riforme le abbia fatte, le abbia fatte bene, sì, perché sì, quella sulle sì, popolari sì, e sul credito cooperativo, per quanto diciamo magari un po' forzate, imprecise, le quadre popolari ancora diciamo sospesa dal punto di vista giuridico, però insomma, un passo in avanti è stato fatto, quindi non lo so, ecco, giustamente noi arriviamo tardi, arriviamo con uno Stato che ha sempre negato il problema, quindi siamo nel ciclo della ristrutturazione forse 4-5 anni indietro, sì, ma però, io penso proprio che non scappiamo, però non faremo mai chiarezza sulle collusioni del regolatore sulle banche. Dico solo una cosa, poi mi taccio. Questo concetto di non svendete le sofferenze, lavoratele in casa, rivolto alle banche dal Banca d'Italia e dalla Consob, non so a quale titolo, ma la Consob è importante che stia in mezzo, diciamo, a dirla sua, e qui si ritrova precisamente in queste norme. Queste sofferenze lavoratevele in casa, create delle strutture specialistiche di recupero crediti, adibite a queste strutture del personale, formandolo, so che è difficile, è un investimento, oppure create delle strutture esterne, certo, specialistiche, di fare outsourcing interno, fate, però esatto, l'abbiamo fatto 10 anni fa per i sistemi informativi, non capisco che non si possa fare per la gestione degli NPL. Non fate video dove danzate e ballate, fate più che altro strutture per gestire il recupero crediti. Povera filiale di Castiglione dello Stiviere, su Katia, su, non ce la prendiamo con Katia anche noi, è uno sport nazionale. Per carità, guarda, dopo 20 anni di banca posso prendermela solo con me stesso per essere venuto al mondo. Va bene, torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, flash su i referendum. Parliamo prima di quelli italiani e col nostro ospite, e poi di cosa succede in Catalogna. Sulla Catalogna, lo sapete, iniziano le potenti reazioni economiche e finanziarie, e molti catalani iniziano a dire ai giornali locali aiuto, aiuto, paura, paura, non ce l'avevano detto, in fila a ritirare i soldi dalle banche, eccetera, eccetera. Cioè la scoperta è che di fronte a una secessione bisogna ricominciare da capo con le procedure di affiliazione all'Unione Europea e all'euroarea, e quindi si corrono tutta una serie di rischi. Le banche scelgono altre sedi legali e la gente ha paura, ritira i soldi, le imprese fanno la stessa cosa. Riflessione su quello che troviamo invece sui giornali oggi in vista dell'avvicinamento al referendum Lombardo-Veneto, che ripeto è su tutt'altro, è coerente all'articolo 116 della Costituzione italiana, non è secessionista, è la richiesta, è un referendum consultivo in due regioni di richiesta di voto per dare più forza all'apertura di un tavolo come previsto dalla Costituzione su una delle 24 materie previste però dalla Costituzione, tante molto rilevanti, a differenza di quello che dicono tutte stupidaggini, cioè tutte le materie concorrenti più tre che sono di quelle invece di competenza dello Stato, quindi 24 materie sulle quali la Costituzione ci dice che lo Stato può dare più autonomia a chi la richiede nella forma di un'intesa che va raggiunta tra governo e regione e poi sottoposta a un voto del Parlamento. Questo è quanto. Se vedete sui giornali italiani oggi, io mi limito a ridacchiare di fronte all'intervista del mio amico, vecchio ex amico per così dire, vecchio ex amico Giulio Tremonti al Corriere della Sera, perché tanti anni fa Giulio Tremonti ci saltava dicendo che gli stati nazionali sarebbero stati travolti dai liberi flussi di capitale, poi ha iniziato a dire l'esatto opposto, che gli stati nazionali vanno assolutamente difesi dai liberi flussi di capitale, e adesso tira un colpo a cerchio e una botte perché dice che comunque la colpa di tutto è dell'Europa, e vabbè, è d'accordo, io trovo che sia una maniera per non spiegare, però è sempre molto cercato e ricercato Tremonti, no, una specie di oracolo. Però voglio dire, lui torna a dire difendiamo gli stati nazionali, la mia idea è che gli stati nazionali se non sono compatibili nel tempo con i loro ordinamenti a un'evoluzione attiva per cui dalla globalizzazione chiede più autonomia locale, più controllo a livello basso su come si spendono direttamente i soldi dei contribuenti e più proiezioni di economie regionali nel mondo globalizzato, ecco, gli stati nazionali dovrebbero rendersi semplicemente coerenti a questo, quelli federali sono fatti per questo, infatti riescono meglio a farlo, gli altri dovrebbero concedere più autonomia. Invece ci troviamo Messaggero di oggi, pagina intera, l'ennesima pagina del Messaggero che spara a zero contro il referendum del Nord. Poi il Messaggero, amici del Messaggero, io ci scrivo il Messaggero, però noi chiediamo che per Roma Capitale ci sia la legge ad hoc. Non vi rendete conto che delle due l'una o l'una sta insieme all'altra oppure non stanno insieme? Ma questa è bellissima, non l'avevo, mi era sfuggita questa. Perché capite, ecco, il dibattito italiano è un po' apiffero, se posso dire, e lo dico, come vedete, parlando in primis dei giornali da giornalista. Allora, detto tutto questo, abbiamo con noi il professor, aspetta, ma ce l'abbiamo collegato? Perché io non lo vedo in questo momento sullo schermo di fronte a me, il professor Luca Antonini, che si è diritto costituzionale all'Università di Padova ed è uno di coloro che, insieme al professor Bertolissi e altri, in questi anni hanno patrocinato anche la causa del quesito poi ammesso al referendum consultivo il 22 ottobre in Veneto. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno Oscar, eccomi. Che dice di questo confuso dibattito per cui non si riesce a farlo nel merito perché la coda di quello catalano dà grandi armi per dire inutile e pericoloso, ma senza entrare nel merito? No, guardi, è un dibattito molto asfittico, ha totalmente ragione. Innanzitutto sono in referendum diversissimi da quello catalano. Quello catalano è stato bocciato dalla Corte Costituzionale e contro la Costituzione spagnola. Questo è stato, questi regionali italiani sono stati promossi dalla Corte Costituzionale, che ha fatto un overruling nel 2015 e li ha legittimati, e sono per attuare l'articolo 116 della Costituzione. Una disposizione della riforma del titolo quinto che è rimasta inattuata per 17 anni e in fondo era invece una delle disposizioni più ragionevoli di quella riforma, ma che presentava invece tantissimi difetti, perché l'Italia è diversa e diversificata, non si può utilizzare l'omogeneità riguardo all'attuare un progetto di regionalismo, di federalismo in Italia. L'omogeneità veniva criticata già da Sturzo nel 1949. L'Italia è fatta per la differenziazione. Noi abbiamo regioni come la Lombardia e il Veneto che hanno le loro amministrazioni, che sono le uniche amministrazioni italiane che stanno ai vertici nelle classifiche internazionali. L'OCSE mette la sanità della Lombardia e del Veneto, come quella anche dell'Emilia Romagna e della Toscana, ai vertici mondiali nel rapporto fra qualità e prezzo, tant'è che l'Italia complessivamente, avendo dentro anche regioni canaglia come la Calabria o la Campania, è al secondo posto per qualità e all'undicesimo per spesa al mondo. Quindi se c'è un caso dove unico l'amministrazione italiana è al vertice delle graduatorie internazionali, quella è la sanità gestita dalle regioni. Lo stesso avviene per esempio sul turismo, la regione Veneto attira come in termini di PIL come tutte le regioni meridionali messe insieme e non ha il mare della Calabria o della Campania. Allora sono amministrazioni virtuose che devono essere valorizzate, perché tu, se tu lasci più competenze, quindi più risorse su territori ad alta resa, e questo va a vantaggio di tutto il PIL nazionale, non è una rivendicazione egoistica, è un progetto, si può aprire un dibattito, una progettualità politica che va a vantaggio dell'Italia. Noi oggi in Italia abbiamo un paradosso drammatico, uno Stato invasivo al nord e assente al sud. Non so se ha seguito l'audizione parlamentare di Fiumefreddo, che ha la commissione antimafia, che è il direttore di Riscossione Sicilia. Ex direttore, defenestrato. Ex. 53 miliardi di imposte non riscosse, ha mandato gli ispettori in certi punti, gli hanno puntato la pistola alla tempia. E infatti l'hanno mandato via, esatto. Dov'è lo Stato? Dov'è lo Stato? Lo Stato è drammaticamente assente al sud. Io adesso sto facendo delle ricerche, degli studi, e sto verificando che la prima delle istituzioni delle regioni al sud, la produttività del lavoro era più alta al sud che al nord. E la cassa del mezzogiorno ha funzionato benissimo fino a quando non hanno istituito le regioni al sud, perché ha fatto opere straordinarie. Allora, al sud occorre molto molto più Stato, mentre al nord occorre meno Stato. E semplificando il sistema, lasciando agire questa amministrazione che invece vengono sistematicamente penalizzate, per esempio dai tagli lineari e da tante altre invasività ingiustificate dello Stato, noi avremo un sistema che risponde sia alla questione settentrionale che a quella meridionale insieme. Cioè questi due referendum italiani, penso che se fossero fortemente partecipati e vinti, determinerebbero uno tsunami politico proprio in questo dibattito che, come dice lei, è asfittico e sciatto, è totalmente sciatto. Io ho l'impressione che la vera partita sarà quella sulla partecipazione al voto. Dei 16 milioni che in Lombardia e in Veneto, e più, sono più di 16 milioni, in teoria hanno diritto. Secondo lei qual è la soglia oltre la quale c'è un effetto significativo di portanza aggiuntiva? Altrimenti lo sappiamo già, perché anche se non ve lo dicono, cari ascoltatori, sono tantissime le regioni che hanno provato l'articolo 116 della Costituzione. Beh, in questi infatti, anni. Senza referendum, senza mai non portare mai a casa niente. Perché occorre, per questo la Corte ha cambiato orientamento, a mio avviso, perché si è resa conto che senza un referendum di quel tipo il 116 rimane inattuato. Sono 17 anni che c'è e è rimasto inattuato. E lo dico per chi crede che sia solo una cosa della Lega. Non è vero, perché a chiedere il 116 sono state, con ambiti diversi, erano state la Toscana, erano state il Piemonte, certo, eccetera eccetera, anche se i giornali ci dimenticano di raccontarlo. Però detto tutto questo, secondo lei qual è la soglia minima perché abbia... Ma io, guardi, ha ragione lei, qui tutto si gioca sulla partecipazione. Se la partecipazione è importante, io penso che non basta raggiungere il quorum, il 51%, occorre che c'è in Veneto e non c'è in Lombardia, ma io penso che il 60-70% dovrebbero essere i valori che determinano uno tsunami politico in questo, gettano un sasso nello stagno del dibattito italiano. Se la partecipazione dovrebbe arrivare intorno a quelle cifre per avere l'effetto significativo e quindi rompere questa inattuazione dell'articolo 116, credo, del 60-70%. Ed è, temo, esattamente l'obiettivo per cui se ne parla poco e male, perché alla fine poi la reazione è volta esattamente a impedire questo, cioè l'elevata partecipazione, perché è scontato che sarebbero i sì a vincere. Ecco, dire purtroppo che un referendum inutile è veramente una cosa scellerata, perché non è vero che è inutile. Pensi se ci fosse una partecipazione del 70%, dell'80%, il governo che dicesse di no non potrebbe più candidare i propri rappresentanti in quelle regioni, quindi l'effetto politico che si determina è un effetto veramente forte. Però l'obiezione è più che sia un referendum egoista, diciamo, posto che non è un referendum separatista, perché dice chiaramente nel quadro dell'unità nazionale, così dice il quesito. Come si risponde invece alla domanda, ecco voi del nord egoisti? Se rimangono risorse su territori ad alta produttività, questo va a vantaggio del tutto il PIL nazionale. Sa quanti sono i dipendenti di tutti i comuni del Veneto, della regione Veneto messi insieme, tutti i dipendenti comunali del Veneto? Sono 26.000, Roma ne ha 40.000 da sola. Quindi al doppio, con le tre partecipate, ha il doppio di dipendenti della regione Veneto, di tutti i comuni della regione Veneto. Allora, se le risorse continuano a essere drenate dall'inefficienza, Questo non è che va a vantaggio del bene comune. Io credo che se le risorse produttive rimangono sui territori ad alta produttività, questo determina la possibilità di aumentare il PIL nazionale. Il PIL nazionale, anche più risorse per la solidarietà. Non è solo per la solidarietà, ma perché poi il Sud ha bisogno di più Stato. Cioè dovrebbe aprirsi un dibattito a livello nazionale che dice lo Stato si ritira dal Nord e comincia a essere presente in un Sud dove a causa della mancanza dello Stato si è a rischio di spopolamento. Non c'è più paese OCSE a livello dell'OCSE che ha un divario territoriale fra Nord e Sud. Non c'è più, prima c'è la Germania dell'Est, ma lì hanno risolto quei commissariamenti, e con i commissariamenti che hanno riportato l'Est quasi a livello dell'Ovest. Infatti ho fatto una trasmissione questa settimana prendendo spunto dalle tesi di due siciliani, proprio Fiume Freddo e Buttafuoco, che dicono a giugno serve un commissariamento in base a le delibere della sezione regionale della Corte dei Conti sulla falsità del bilancio, e il commissariamento non serve solo per il bilancio ma è la premessa per poter ricostruire la Sicilia. Sono esattamente sulla linea che ha appena delineato il professor Antonini, che intanto ringrazio. Noi torniamo dopo le strade e andiamo a sentire con il nostro amico Sergio Nava che cosa attendersi per la Catalogna. Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. E insomma, caro ascoltatore, laddove non poté la Guardia Civile, il manganello di Rajoy e le proibizioni della Corte Costituzionale, gli amici di Carlo Alberto, cioè i banchieri, riescono a fare. Hai visto? Qua tocca agli spagnoli, anzi catalani sul portafoglio, che improvvisamente questa volontà di sovranismo scompare come la nebbia mattutina. No, è incredibile leggere le interviste che ci sono sui media, cioè non ci avevano avvisato della corsa agli sportelli. Ma pensa noi non lo sapevamo. No. È l'inno dei popoli sovrani, esatto. Segnatevela questa. Vogliamo spiegarla un po' meglio, caro Oscar? Che qui le banche stanno scappando dalla Catalogna perché giustamente una Catalogna sovrana fa decadere tutti i trattati e in particolare fa scappare tutti i soldi. Però questo, posso dire che può essere un errore delle regole europee, che come sempre i matrimoni per sempre, siccome non esistono i matrimoni per sempre, non esistono, ma non è che non esistono solo i matrimoni, non esistono tantomeno nelle determinazioni pattizie degli stati o degli enti sovrani. Ecco, questa storia per cui l'ordinamento europeo non consente, non è adattativo rispetto a chi entra e esce o pezzi che ne escono volendone rientrare, è un errore profondo, questo io sono convinto. E come Mario Draghi, a me fa piacere che Mario Draghi dica che l'euro è per sempre, però un diamante scatta una risatina, perché nella storia delle unioni monetarie non si conoscono cose per sempre, niente, come evidente. Quindi siccome niente per sempre, bisogna avere delle regole per cui metti che la Catalogna vince legittimamente o rompendo un ordinamento che gli impedisce di vincere la sua sovranità e appropriarsene, ma vuole giocarsene in Europa, uno dovrebbe dire: bene, nelle nostre regole non ci sono eventi traumatici a cui ti devi esporre per restare in Europa, oltretutto. E invece, caro Alberto, non è così. E quindi le banche diventano lo strumento della Guardia Civile. Ma guarda caso, e della monarchia, cioè, contro la Repubblica. Ma non della monarchia, diventano lo strumento dell'integrazione economica. Questo dobbiamo capire, per quello che dobbiamo prenderci con le banche del sistema nazionale. Le banche sono state le prime ad essere forzate dentro il sistema europeo, ma per forza, si chiama eurosistema, ma funziona così. Quindi la gente deve capire che le regole, anche come vedi, l'Unione Europea, ma anche l'euroarea, dovrebbero essere adattative rispetto agli sviluppi. Invece sono la pretesa di essere fotografie eterne porta a una cosa, qual è quella che in questa settimana l'Unione Europea ha fatto la figura di essere coi manganellatori, una bella impressione. Ma quella è una pessima figura, sono d'accordo però, con te, cioè, ma deriva dalle stesse norme. Sono stati stupidi e inutili quelli che hanno usato il manganello, stupidi e inutili. Vedrai che vincono, però, diranno ancora una volta che hanno ragione loro. Sì, però non è che si possa sempre dire, se l'Unione Europea interviene è ingerenza nella sovranità, se non interviene è complice e collusa, e sta povera Unione Europea, lasciatela tranquilla. Linea Tremonti, la colpa dell'Europa sì, no, per capito, tutto. Tremonti con questa linea potrà forse raccattare qualche voto in Italia, però nel magico regno della realtà Tremonti non si muove da casa sua. Allora sentiamo Sergio Nava, che è stata la voce, le orecchie, gli occhi, e io molto lo ringrazio nei giorni insomma, a cominciare dal giorno per definizione, cioè quello del referendum e delle manganellature di massa. Mi dispiace che molti ascoltatori, abbiamo una parte di oltranzismo sovranista, dovete sapere, caro Alberto e Mario, nel nostro special ascoltatore, che a me se la sono presa con me dicendo: sei un falsificatore, perché non ci sono state da parte della Guardia Civile se non reazioni a violenze altrui, che poi è la tesi ufficiale che ho trovato persino nel ministro degli esteri, il ministro dell'economia spagnolo. Mi ha fatto rabbrividire che tra i nostri ascoltatori ci fosse gente che anticipasse, ho pensato che fossero anche agenti del governo spagnolo, ma non è così. Però Sergio Nava, grazie di essere con noi. Mi fai capire, ci fai capire un secondo, questi sviluppi banco finanziari e di impresa, che secondo me hanno un impatto notevole, stiamo parlando della regione più ricca, più avanzata, col più alto valore aggiunto, con la quota più elevata di export, di concentrazione di capitale umano, ricerca, multinazionali e così via. Quindi è ovvio che questo fenomeno che sta avvenendo da ieri e che oramai arriva all'opinione pubblica catalana, beh, ha un impatto secondo me molto significativo. Come può influenzare secondo te il braccio di ferro irrisolto? Siamo arrivati che c'è la Corte che aveva disconvocato la riunione di lunedì dell'Assemblea catalana perché naturalmente è incostituzionale, e non si capiva bene ancora quali erano le determinazioni dell'autorità catalana. Secondo te, Sergio? Ciao Oscar, innanzitutto, beh sì, diciamo che sicuramente quello che sta avvenendo in queste ore, l'avete detto voi, lo avete spiegato benissimo, sta facendo pendere il braccio di ferro di nuovo verso Madrid. Questo è poco ma sicuro, proprio perché gli stessi giornali catalani stamattina mettono in evidenza come il presidente della Generalitat, Puigdemont, si trova ora in una sorta di impasse, perché pezzi forti, pezzi importanti del suo partito, che è il PDeCAT, che è l'antigua Convergencia, che è l'ex partito di Jordi Pujol, storico leader catalano, stanno cominciando a dire attenzione. Tra questi c'è anche il ministro delle imprese, Santivila, stanno cominciando a dire attenzione, rallentiamo un attimo, non forziamo troppo la mano, perché altrimenti rischiamo di andare a sbattere contro il muro. E come per ripescare un vecchio slogan, it's the economy, stupid, direbbe qualcuno. Ma scusa, io ti faccio una domanda per sapere da te, dimmi, quali sarebbero le reazioni. Mi ha molto colpito la, tra virgolette, cautela. Ci ho fatto una trasmissione questa settimana, mm-hmm, con cui Barzani, il leader del Kurdistan, sì, ha fatto fare il referendum contro i cannoni di tutte le potenze mondiali, lo ha stravinto, e per prudenza, essendo un paese dove le cannonate si fa in fretta a tirarle, quelle, ha deciso, cioè ha parlato al mondo dicendo: lo sapete tutti chi ha vinto e con quale percentuale, ma io non formalizzo il risultato, come dire, non vi do la scusa, cari turchi, iraniani, iracheni, per far entrare i carri armati qua, trattiamo. Questa è stata la posizione di Barzani. Può Puigdemont assumere una linea simile secondo te? Sarebbe la cosa più sensata, ne abbiamo parlato anche lunedì, Oscar. Il problema è che ci vorrebbe veramente un dialogo. Finora i catalani si sono visti da 10 anni a questa parte respingere di tutto. Hanno fatto una riforma dello statuto nel 2006 e il Mariano Rajoy, attuale premier del governo, all'epoca all'opposizione, l'ha fatta di fatto annullare dalla Corte Costituzionale. Hanno cercato di avere una maggiore autonomia nella gestione delle tasse e si sono scontrati contro poi il successivo governo del PP. Ora cercano di concordare un referendum assieme per l'indipendenza, o comunque di riuscire a trovare una via legale, no, e tutto tra l'altro, ecco, aggiungo una battuta, vi farà anche abbastanza ridere, circola questa battuta di un giornalista spagnolo, dice: se la Catalunya diverrà indipendente un giorno, bisognerà dedicare un'avenida o una piazza a Mariano Rajoy, perché è stato un vero patriota catalano. Sì, in qualche modo lui ha spinto il radicalismo con tutti i suoi no. Esatto, va bene. Diciamo come ha lavorato lui per l'indipendenza catalana, nessun altro. Effettivamente. Allora Sergio, noi continueremo a romperti le scatole naturalmente nei giorni a venire, intanto grazie per quello che continui a fare, noi ci torniamo, grazie, dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta, cari compagni dei Conti della Belva. Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Oltre a Oscar Giannino, occhio naturalmente agli sms da commentare dei nostri ascoltatori con le opinioni, eccetera, perché adesso andiamo di telefonate. Lasciate che vi dica, cari ascoltatori, l'aggiornamento: come avete visto, qualcuno aveva protestato, avevamo ceduto a parlare con toni troppo alti e troppo arrabbiati della vicenda dello spesometro lo scorso sabato. Come avete visto, ennesima proroga, ennesima capitolazione di quello che dovrebbe essere l'asse digitale più avanzato, più tecnologicamente perfezionato, caro Carlo Alberto, che ce ne canti sempre i meriti dello Stato, cioè quello tributario, che invece è un canto triste. capitolato assolutamente, nuova proroga, e questi naturalmente continuano a dire che vogliono poi la rete di Tim, perché sapete è un asset così strategico, sono bravi allora, a gestirle le reti, questo per dirne una delle novità che ci ha riservato la... Comunque qui i nostri ascoltatori intervengono sul dibattito separazione, federalismo, no? Qui uno dice euro sporco ricatto della Spagna nei confronti della Catalogna, l'altro dice no, veramente fanno benissimo i catalani a ritirare i soldi, perché non c'è da fidarsi di questi separatisti, come dire, molto molto poco preparati, no? Poi parlano del Sud Tirolo, no? L'Italia, l'Europa dovrebbe garantire condizioni federali, l'Austria è stato federale. La secessione del Sud Tirolo sarebbe più semplice. Beh, insomma, non proprio così, non stiamo parlando delle stesse cose. Sentiamo per una prima telefonata. Federico, che ci chiama da Belluno, credo con attinenza proprio al referendum in Veneto. Federico. Buongiorno, Oscar. Buongiorno. Allora, semplicemente volevo dire che a proposito del referendum, una persona non solo vota in merito, anzi, vota soprattutto in base a quello che si ricorda, quello che sa o quello che crede di sapere. Sì. E io, lavorando per Confartigianato Belluno, posso dirvi questo. Secondo me a Belluno ci sarà una buona affluenza, perché lo vedranno come un gesto di rivalsa verso la concorrenza, a volte anche sleale, proveniente dalla provincia di Trento e dal Friuli. Entrambe che hanno anche loro, al Friuli Venezia Giulia c'è l'autonomia speciale. Esatto, esattamente. Tutto qua. E nel senso che come una concorrenza sleale, quelli hanno l'autonomia speciale e ne approfittano, e invece il resto di regioni che hanno caratteristiche del tutto analoghe nel tessuto di imprese e così via sono sottoposte a un regime diverso. Caro Stato nazionale, ma perché con questa stupidaggine che poi miete vittime anche tra i giornalisti del centro-sud che credono di doverla assecondare, non ho mai capito perché, perché dobbiamo rimanere eternamente cristallizzati, caro Alberto, alla fotografia di alcune autonomie speciali che avevano un senso storico, e come nelle prime settimane dell'immediato dopoguerra in Sicilia si tentò di evitare la guerra civile, per questo si deprime la Costituzione, è una scelta politica, il Trentino Alto Adige c'era la partita, come sapeva De Gasperi, con i tedeschi e gli austriaci. In Val d'Aosta c'era un'altra partita più linguistica. Però vedi che anche in quel caso la questione è regole costituzionali che non sono state scritte con l'idea che devono adattarsi alla realtà. Questo è il difetto di fondo. Vero, vero. Però c'è anche da dire una cosa, perché non vorrei buttarla solo sul piano economico. Cioè, ci sono tante politiche, istruzione, ambiente, politiche sociali, welfare, educazione, trasporti locali, su cui un'autonomia di regioni ad alta densità, esatto, avrebbe grande vantaggio. Onestamente, andiamo verso modelli mobilità elettrica, tecnologiche. Se dobbiamo aspettare lo Stato, perdiamo delle occasioni. Quindi ha un senso, che non è solo un senso delle tasse, dei soldi, è un senso di velocizzare la produzione di normative a un contesto che oggettivamente è più vicino al resto d'Europa che a volte al resto d'Italia. Io penso anche alla scuola e università. Abbiamo avuto questa settimana l'ennesima conferma dal rapporto OCSE di dove stiano le competenze. La certificazione delle competenze del rapporto OCSE sono di questa settimana di 200 pagine e purtroppo scandalosamente conferma di ciò che sappiamo. Però anche in quel caso ho l'impressione che poiché la scuola e l'università rientrano nelle materie in cui si può chiedere più autonomia secondo l'articolo 116, un avvicinamento in questo al modello tedesco, pensate, in Germania addirittura la durata dei cicli dell'istruzione è diversa, certo, da land a land. Quindi io sono fondamentalmente quello che mi lascia molto perplesso, cari colleghi giornalisti, è che riduciate tutta questa storia ogni volta a no, ma Salvini, Bossi, eccetera eccetera, ma, cioè, noi non siamo all'altezza, cari giornalisti, di temi che sono molto più complessi della messa in ridicolo circense in cui noi per primi la riduciamo, e poi ci lamentiamo che la gente non compra i giornali. Secondo me è un po' collegata la faccenda. Allora sentiamo come la pensa Antonio da Frosinone. Antonio, eccomi qua, buongiorno a voi, buongiorno dottor Giannino, naturalmente complimenti per la trasmissione, solita sì, naturalmente sì. Cappello introduttivo. Non dottore, ma grazie. Allora Antonio, vai al punto. Allora, il punto è questo: nonostante lo sframacco, usate, lasciatemi questo, passare questo termine, che hanno fatto le banche in Italia, non si capisce perché la magistratura non abbia contestato a questi gentiluomini che voi ripetete costantemente in radio, Zonin, cosa, sì, eccetera, sì, destra e sinistra, il reato, perché è un reato, di abusiva erogazione di credito. Aspetti, questa è interessante perché siccome viene applicato solo di solito il reato che a me fa molto ridere, lo dico ai miei amici in Banca d'Italia, quando ogni volta viene contestato il fatto che praticamente si dica, si agisce la vigilanza, no? Lo ostacoli alla vigilanza, e io dico ogni volta la sistematicità, Calaberto Mario, non so come la pensate, con cui viene contestato il reato di ostacolo alla vigilanza, la mia conferma che la vigilanza non serve a niente in Italia, scusate, esatto, per come viene esercitata, esatto, cioè, è una croce sulla necessità che sia la Banca d'Italia ancora a occuparsene delle piccole banche. Ma detto questo, sarebbe interessante invece se si contestasse il fatto che non bisogna dare credito agli amici degli amici e che questo arriva a essere un reato, Carlo Alberto. Beh no, è un reato effettivamente, e la contestazione di questa condotta sarebbe molto interessante. In effetti, per esempio, i famosi crediti mutui baciati secondo, esatto, me sono assolutamente nella fattispecie di questo genere. Guarda, ragione l'ascoltatore, si scoprono tanti reati strani in questo paese, direi, vabbè, che ce ne sono in abbondanza. Nessuno è consapevole di tutta l'esistenza delle violazioni del nostro ordinamento, però c'è una frustrazione, un ottimo, non un paradosso, ma una ottima osservazione su un apparente controsenso che non lo è per niente invece. Alessio da Roma, Alessio. Buongiorno. Buongiorno. Si stava dicendo prima delle lungaggini per le esecuzioni coattive italiane, che sarebbe cosa da superare. Sì. La domanda è questa: non credete che non arriveremo mai a questa bella svolta fin tanto che lo Stato italiano continuerà a essere un creditore, diciamo così, pigro, va? Pigro? Addormentato, sepolto. No, abbiamo il record negativo dei pagamenti della pubblica amministrazione. Renzi aveva promesso, esatto, che era tutto risolto entro settembre del 2014. Se no andava, esatto, al monastero, lì a piedi. Ha fatto un pellegrinaggio, il problema si è risolto, scusate. No, non l'ha fatto neanche il pellegrinaggio. Ha ragione. È il primo responsabile della difficoltà finanziaria di molte piccole e medie imprese è lo Stato, che non paga. Poi vorrebbe aumentare la spesa pubblica, ma finta, perché poi non incassi, non seguono questa cosa, quindi mette ulteriormente in difficoltà. Buon punto, assolutamente. Allora, naturalmente, per essere corretti anche qua, perché siccome io ho rotto la scatola per anni, mi tocca essere corretto, e ogni volta che si tocca l'argomento mi tocca dire. Allora, passi in avanti comunque ce ne sono stati, ma non tali da impedire che il fenomeno dei pagamenti ordinari non continui ad alimentare il fenomeno del ritardo, dove per ritardo non intendiamo 10 giorni di distacco dai 30 giorni ordinari o da 60 giorni che sono per alcune materie specialistiche, ma un ritardo di mesi, ecco. E quindi la valutazione è che siamo tornati di nuovo verso i 70-80 miliardi arretrato serio, purtroppo, anche se va ammesso che dai dati certificati che Tesoro ci dà con troppo ritardo, ma comunque che ha ripreso a darci, questo io lo riconosco agli amici del MEF, gli scandali in particolare di alcune aziende sanitarie tipo Napoli 1 e tipo quelle calabrese che pagavano a 5 anni di distanza sono rientrati entro termini un anno e mezzo, 600 vero, giorni. Vero. Però, ecco, però ha ragione lei, il fenomeno resta, cioè non è costruita per pagare in tempo l'amministrazione pubblica italiana, c'è poco da fare. E non è una questione solo di sottovalutazione dell'impatto economico, è la questione delle norme a cui è sottoposto il processo di pagamento italiano, che non hanno eguali anch'esse nei grandi paesi europei, che sono molto più spedite. Questa dannata doppia competenza, cioè i conti per competenza e i conti per cassa, che ispira la contabilità pubblica delle uscite, in particolare nel nostro paese, e che è evoluta così nel tempo per rispondere a diversi criteri di controllo, per cui al MEF si fa per competenza, la Banca d'Italia si occupa dei mandati di pagamento, cioè della cassa, è la fonte fondamentale di questo problema, purtroppo. Torniamo tra un minuto. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia all'emesto, dai tempi di Scipio finito. Della belva. Allora, eccoci tornati qua per la parte in cui ci avviciniamo a una domenica, ci avviciniamo al precetto domenicale. Carlo Alberto inizia, voi dovete sapere che lui ci ha preso tutto un sabato col cilicio, c'è la cerimonia dell'espiazione, il rosario, Carlo Alberto è assolutamente dedito a delle pratiche mistiche, contro le formistiche. Sì, infatti a immaginato. Volte leggo alcuni bilanci bancari che possiamo assimilarlo a una pratica sì, mistica, esatto. Sono d'accordo. La domanda è davvero questa, siccome oggi c'è a Trento un convegno nell'ambito delle manifestazioni del cinquecentenario dell'inizio della riforma, cioè l'affissione delle tesi da parte di Martin Lutero, e tra le tante manifestazioni c'è un convegno molto molto molto di livello molto elevato a Trento in cui ci si pone il problema appunto dei reciproci rapporti e dell'eredità. E allora ci siamo chiesti, approfittiamo comunque del cinquecentenario per affrontare questo punto, poiché Max Weber, una semplificazione passata un po' troppo in pillole da cattivi professori, caro Carlo Alberto, a cattivi studenti, ha significato poi l'eternazione di questa specie di mito, no? Il capitalismo si deve all'etica protestante. Storicamente non è vero, ma il problema è vero però che c'è un'etica diversa, questo non c'è dubbio, cioè certo, il punto non è rivendicare dove è nata la partita doppia, ma la lettera d'impegno di credito, ma è lo spirito del capitalismo, non il capitalismo, è lo spirito del capitalismo, la volontà d'impresa, è l'impresa che nasce con Lutero, Oscar, non è il capitalismo, è l'imprenditore, non è il lavoro. Detto questo, poi io sono molto più per l'idea che nasce con Calvino piuttosto che con Lutero, sì, se vogliamo sicuramente essere, però non ci sarebbe stato Calvino senza Lutero probabilmente, non c'è dubbio, però insomma l'idea della grazia dell'individuo rispetto alla redditività dei capitali, quindi ciò non toglie che erano teologi francescani quelli che nel 200 per la prima volta superano il concetto di usura, va bene, quindi date per scontato, cari ascoltatori pignoli cattolici, che ho letto Flavio Felice, ho letto il professor Tosato, sono un grande ammiratore di Michael Novak, di tutti coloro che hanno rimesso in conti in chiaro storiografici sulla storia del capitalismo e la parte del cattolica, ma qui oggi parliamo di etica, esatto. Qui oggi parliamo di etica e ci poniamo le seguenti domande: non è che il sistema bancario italiano è troppo cattolico rispetto ai principi del calvinismo, ma tutto che il capitalismo noi? Italiano non dai, è che sto cacchio di Papa Bergoglio che si chiama Francesco ma invece rispetto ai francescani che di capitalismo erano più favorevoli nel 1200 di quanto non fosse, esatto, lui, esatto, noi siamo in regressione finanziaria, siamo a pre-Francesco nel senso di santo, capisci, non e qua, allora non su di questi Papa. Perché come vedete a colpi d'accetta vi chiediamo scusa, però insomma è anche vero che non trovate molto facilmente delle trasmissioni in cui si parla in questi toni di cose così elevate, ma che hanno un senso, perché in questa eccezione italiana nelle banche, ne abbiamo riparato anche oggi, cosa credete? Che non ci sia un fondo di autoassoluzione permanente che in qualche modo rievoca una cornice culturale, storico-religiosa? Ebbè, io potrei pensare di sì. Allora, abbiamo due ospiti ai quali rivolgere queste domande. Dal loro punto di vista, è un punto di vista particolare ovviamente, perché sono con noi in questa veste particolare, perché lo ringraziamo perché quasi ogni settimana è con noi, ma di volta in volta su un tema diverso, ma questa volta sul tema, insomma, Thomas Mann contro Gianni Verga, per capirci, Udo Gump, giornalista e corrispondente all'Italia per la rete televisiva tedesca NTV. Grazie di essere con noi, Udo. Sì, grazie a voi, ho sentito le interessantissime parole e naturalmente c'è anche qualche seme di verità in quello che avete proferito. In qualche seme, sei troppo generoso, ma subito adesso ci sottoporremo alle bacchettate. E il secondo ospite è un pastore valdese che, devo dire la verità, mi ha sempre colpito per la varietà dei temi su cui esercita anche il magistero pubblico della comunicazione, e cioè Peter Ciaccio, grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo da Udo, che caro Alberto adesso ci taglierà un po' le unghiette perché siamo stati un po' troppo faciloni nell'introduzione, non è vero Udo? Ma non del tutto, perché naturalmente il seme della verità è quello che Calvino e però tutta la riforma ha liberato le forze dell'imprenditoria, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante, i comuni dal giogo di Roma. Questa era la cosa più importante, perché è chiaro che chi chi osserva l'Europa degli ultimi 500 anni vede che c'è una linea di demarcazione che attraversa tutto il continente, che sono i paesi a maggioranza o all'epoca totalmente luterane e i luterani e i paesi cattolici. Nei paesi cattolici e si è fermato il blocco, diciamo, lo sviluppo economico a dei concetti pre-industriali, a dei concetti assolutamente nemici, ostili allo sviluppo industriale, che tant'è vero che in Bergoglio e in moltissimi papi e cardinali troviamo una radice estremamente forte anticapitalista, perché in realtà non perché siano contro il denaro, credo che la Chiesa di Roma non è mai stata contro il denaro, le famiglie papali, le famiglie della nobiltà nera sono esempi macroscopici dell'arricchimento personale e con l'occupazione dei posti chiave in un'amministrazione, no? Perché lo sappiamo benissimo, tutta la ricchezza di Roma che oggi osserviamo, abbiamo questo esempio, no? Però il problema è in realtà è che sono occupazioni manomilitari come le vediamo oggi ancora in Italia. Invece quello che non gli va bene a questi signori che hanno il potere sono le regole del mercato libero che nascono naturalmente nei comuni, nelle piccole città, dunque la frammentazione anche del nord, nell'Olanda, nella parte belga, nella parte tedesca, anche inglese, quello che ha fatto bene, perché ha fatto nascere la concorrenza. Bravo, Lutero è padre del mercato più che padre del capitalismo, è parte, esatto, padre della dispersione delle opzioni, infatti questo è il tema. Il tema in realtà non è il capitalismo, perché voi dovete sapere che anche il commerciante industriale luterano calvinista aveva l'obbligo di dedicare 10% dei suoi proventi in beneficenza, ed era la storia dell'etica, diciamo, di profumo religioso, era una infarinatura che giustificava, che era una specie di necessità del comportamento pubblico di queste persone, però il fondo era liberare la concorrenza, perché qua è la competizione, che in Italia è sempre sleale, ogni competizione è sempre sleale, perché chi è più bravo è sleale verso l'idiota, il primo della classe è sleale verso il cretino. E allora, dato che spesso è chi ha in mano il potere anche di decidere le regole, di dare monopoli, di creare e difendere monopoli, naturalmente spesso non sono i più bravi, perché altrimenti non terrebbero con le mani così fermamente il potere in mano. Allora questa è una idea predominante nell'area cattolica. Poi, diciamo, i papi avevano un'altra idea, basta leggersi i papi dopo il 1871, parlavano della democrazia come un'invenzione del diavolo, e poi se l'abbiamo completamente dimenticato. No, vero? Io no. Non l'abbiamo dimenticato. Anticlericale per quello, però detto tutto questo, allora due concetti che giro in questo nostro primo ricognizione sul campo a Peter Church. Il primo concetto è quello che la lex mercatoria, cioè, diciamo, i presupposti generali prima del riconoscimento nel diritto positivo, ma lex mercatoria come quella evolutasi, affermatasi nei secoli con gli scambi prima della codificazione degli ordinamenti del diritto positivo, è una lex mercatoria, ci fa notare Udo Kump, che parte dal basso, perché è fatta di usi reciprocamente entrati in catene di fiducia e conoscenza reciproca, ed è il fondamento quindi di abitudini, usi, regole individuali, in cui l'individuo è preminente, e la riforma scatena, amplia, moltiplica lo spazio a questa individualità economica, fondata poi anche sull'idea della grazia invece che sulla amministrazione delle indulgenze del credo cattolico. Però, insomma, di fatto questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è che questo, oltre che il fondamento dal basso e attraverso la concorrenza della regola del mercato, con la riforma protestante, però, insomma, c'è molto meno timore del fatto che i bravi si affermano. Perché mentre noi abbiamo bisogno di un attutire socialmente, esatto, con regole pubbliche, il successo dei bravi, perché altrimenti squilibra chi sta peggio, chi va male, leva risorse alla solidarietà, ecco, lì invece lì, il successo dell'individuo è un fondamento sul quale non c'è nessuna bene, condanna. Vedi Lutero fondatore del principio del sentiamo merito. Sentiamo Peter Ciaccio cosa ci dice su questi due presupposti. È vero che è una linea di frattura, l'ha chiamata così Udo Gumpol, che c'è ancora, oppure stiamo anche noi semplificando culturalmente, Peter? Ma allora, questa linea c'è e continua perché, come dire, insomma, dall'idea di Lutero poi si sono propagate generazioni, cioè, ci sono persone che nascono, crescono, sono educate con una certa etica, e questa etica si differenzia sempre di più, ecco, come succede con le specie, diciamo. Per cui succede questo che e oggi siamo a un livello che probabilmente, insomma, non so Lutero come si troverebbe, perché se noi dicessimo che Lutero ha inventato il mercato capitalistico, a Lutero nel 1517 forse si sarebbe chiuso in convento, ecco, cioè che è l'aspetto interessante quasi da teoria del caos, cioè lui fa un gesto e questo gesto poi ha determinate conseguenze. Quello che lui fa è che è interessante e qui c'è proprio una differenza tra, se vogliamo fare un discorso di mercato, tra un capitalismo libero e un capitalismo diciamo delle rendite di posizione. Lui rompe una rendita di posizione gigantesca, perché la Chiesa Cattolica, per ovviare al suo deficit, la costruzione di San Pietro eccetera eccetera, che cosa fa? Fa una mega operazione di marketing, sostiene che esiste un prodotto che si possa vendere. Questo prodotto è la grazia. Da chi la puoi comprare? La puoi comprare solo da me. Il primo condono della storia, possiamo parlare così, questo sostanzialmente. Esatto. Su una cosa che a noi oggi fa anche un teologo sorride, pensa all'angoscia che invece provavano questi personaggi del Cinquecento, per cui l'inferno e il paradiso erano delle presenze reali, vissute in una società molto più violenta della nostra. E la promessa che veniva da questa vendita delle indulgenze era non soltanto la tua salvezza, che come sappiamo in generale ce ne freghiamo della nostra salvezza, cioè facciamo quello che ci pare, però quella dei nostri cari, cioè ti è morto uno zio, ti è morto un padre, e tu adoperati perché non sei esposto al caldo. E tu puoi pagare facilmente a questa banca, al tesoro dei meriti, che è il tesoro delle eccedenze, diciamo, del surplus prodotto dai santi. I santi si sono salvati quanto basta, che e poi grande, è avanzato. Che grande schema Ponzi la Chiesa no. Cattolica. Guardate, e questo va in un grosso tesoro che è gestito da me e solo da me. Ecco, questo rompe Lutero. E dunque non è, diciamo, un promotore del capitalismo, ma è forse un sanatore, ecco. Diciamo che Peter, forse è una forma di antitrust, diciamo, quella di antitrust teologico. Una mega operazione antitrust. E lui sostanzialmente dice: no, guarda, la grazia è roba di Dio, è nell'altra sfera. Dunque, lui è un uomo medievale ancora che parla in maniera medievale. Dunque, ci sono le due sfere: la sfera divina, la sfera umana. E cioè, dunque, la salvezza, queste cose qua riguardano la sfera divina, non riguardano te. E dunque fa crollare questa rendita di posizione, per questo che gli fanno guerra. Vero, vero. Però poi è Calvino che attribuisce invece alla ricchezza il segno della grazia, ricordiamolo. Cioè Calvino, che poi... tanto Calvino quanto i suoi successori. Calvinismo, diciamo. Sì, perché Calvino in realtà dedica... Perché poi dopo, per questo, dal mio punto di vista di teologo, è il peccato dell'essere umano, quello di voler sempre andare a spiegare fino in fondo... Calvino dice: guarda, questa è una cosa che riguarda Dio, basta. No, aspetta, e poi, no, vabbè, dopo dicono, con questa frase hai interdetto praticamente generazioni di economisti. Sì, no, cioè voglio dire che a un certo punto le persone si dicono: sì, ma si dovrà vedere questa grazia che ti è arrivata, sì, e sì. Allora poi escono queste cose qua. Ma sostanzialmente viene separata la sfera del divino e dell'umano, e dunque la Chiesa non ha più quel ruolo di monopolista. Di agenzia di salvezza, di agenzia esclusiva di salvezza. Questo viene rotto da Lutero e questo permette agli altri di fare quello che devono fare, di fare, cioè di occuparsi della famiglia, di occuparsi del loro lavoro, delle loro cose, perché sono liberati da questa preoccupazione, perché la grazia è gratuita, viene da Cristo, dall'evento della croce, basta. Però fai fare un commento da economista, Peter. Aspetta, commento da economista, perché torniamo tra un minuto e riprendiamo da te. Della belva. Eccoci qui tornati in studio con il compare dei conti della belva. Mario, Carlo Alberto e Oscar, e ci poniamo ancora per un blocco. E il punto, sì, siamo un pochino fuori, alcuni ascoltatori protestano, non siamo credenti, come osiamo parlare del cattolicesimo e della riforma se non siamo credenti? Siamo... Perché dici così? No, non è vero invece. Io penso che onorare un grande coraggio dei riformatori sia alla fine rendere omaggio a questo, no? Però posso fare un commento per Possiamo Peter? Dire che se ne è parlato troppo poco di questo cinquecentenario in Italia. Invece merita. Non mi stupisce affatto. Però se posso dire due commenti a quello che ha detto Peter, e magari chiediamo poi invece a Udo la critica sulla Germania. Allora, due commenti. Uno, Lutero cosa ha fatto? Ha ridotto i costi di transazione perché i mediatori sacerdoti e poi ha risolto un tema di capital misallocation, no? Quindi molto bancario, perché i soldi prima finivano nelle tasche appunto della curia romana, invece sono stati reinvestiti nella produzione e nel capitalismo. Quindi dal mio punto di vista un'operazione straordinariamente efficiente, vero Peter? Sì, in effetti è quello che ha fatto, ma non solo, ha anche tolto diverse rendite di posizione. Questo secondo me è interessante, perché poi le rivolte che secondo me erroneamente vengono definiti di sinistra, propriamente, quantomeno, dei contadini e dei cavalieri, lasciando perdere come sono state represse, ecco, che non è un dettaglio da poco, erano rivolte che erano contrarie a questo azzeramento delle posizioni, che è un po', come dire, il problema della segregazione, dell'apartheid, no? Che si fonda, un sistema di classi, si fonda sul fatto che all'interno della tua classe, del tuo gruppo, tu puoi scalare, scali tra pari, ma non puoi passare da una classe all'altra, non puoi passare da un gruppo all'altro. E questo è allettante per molti, perché effettivamente puoi diventare, ora per esempio la segregazione, puoi diventare facilmente leader della comunità afroamericana, ma quanto difficilmente riesci a diventare presidente degli Stati Uniti? Ecco, dunque, questo secondo me Lutero... rompe questo sistema medievale di classi. C'è un altro tema però, Peter. C'è un altro tema che voglio chiederti, che è il tema della redistribuzione. Cioè, nel mondo cattolico la redistribuzione è compito della Chiesa, che raccoglie le decime e poi dà ai poveri. Nel modello luterano e poi calvinista la redistribuzione è il risultato di un lavoro diffuso. Quindi anche qui, come dire, non si concentra nello Stato o nell'entità centrale il compito della giustizia sociale, ma viene disperso, e quindi la carità è responsabilità individuale. Anche perché non c'era uno Stato come, c'era uno Stato moderno come oggi. No, non c'era welfare, però ante litteram questo era il senso della carità cattolica, no? Date alla Chiesa e poi ci pensa lei a ridistribuire ai poveri. Qui invece il richiamo alla carità. No, qui invece c'è l'attenzione per far rialzare i poveri da soli. La riforma protestante concepisce l'abolizione della povertà, ma non alla Ceausescu che dice non ci sono, cioè, mettiamo zero sulla statistica, abbiamo eliminato i poveri, no? Cioè, ma un'abolizione della povertà finalizzata, che ci stiamo arrivando, cioè fino a 800 i poveri erano l'85% della popolazione mondiale, oggi 15%. Ecco, cioè, bravo a dirlo, esattamente. È possibile fare questo e la riforma ci ha creduto. Allora io non prendo e ti do i soldi. Cioè, certo, ti do una mano, se hai bisogno di una mano contingente, è dovere del cristiano aiutarti, del cristiano e non necessariamente della Chiesa, cioè tu stesso sei responsabile. Assolutamente, del povero. La responsabilità della solidarietà è individuale, non viene delegata allo Stato o alla Chiesa, appunto, questo è importante ricordarlo, perché questa è la battaglia che ha fatto Calvino e Lutero. E la cosa importante è che il povero non sia più povero, non che sia... insomma, sempre assistito, sempre, insomma, che necessiti di elemosina. Perfetto, abbiamo messo un altro bel mattone dei nostri motivi di riconoscenza verso la riforma, cioè come e chi fa diversamente la redistribuzione. Però domanda, sì, Mario. Io ho una domanda per Udo, che poi è un grande classico di queste posizioni che girano anche in Italia. Allora, va bene il protestantesimo, eccetera, però non dimentichiamo, ad esempio, che in Germania due tra i Länder più ricchi, Baviera e Baden-Württemberg, sono a maggioranza cattolica. Quindi, Udo, classica domanda che ti avranno fatto in migliaia di persone: come spieghiamo questa anomalia? Ma è una domanda molto interessante, perché in realtà a che vedere con il fatto che il cattolicesimo tedesco in realtà ha un cattolicesimo luterano. Perché io ne ho parlato ogni volta che viene un cardinale, un vescovo cattolico qui a Roma alle visite ad Eliminam, no? Sulla soglia delle tombe è chiaro che qui degli apostoli, sì, esatto. No? Allora è chiaro che ne discutiamo in serate, che loro sono molto più libere, no, molto più rispetto a noi. Allora, loro, io adesso non posso dire cardinale Lehmann o come un altro, sono tutti d'accordo che la etica della Chiesa cattolica è perfettamente luterana, e la struttura industriale in Baden-Württemberg è una struttura familiare che proprio rispecchia perfettamente quella esperienza che nasce con Lutero. Le grandi lotte e dei contadini contro i principi sono proprio nel Baden-Württemberg, sono le famose battaglie. E poi la Baviera è un altro esempio, laddove in realtà dall'alto e da una democrazia cristiana sociale, la CSU, nasce questa idea di industrializzare dall'alto, da parte di un principato illuminato, vogliamo dire. Però volevo dire una cosa che hanno preso tutti e che vivono in Germania nel DNA, che è forse la più importante eredità etica della riforma, è la responsabilizzazione dell'individuo. Che dato che la grazia non la ricevi da una istituzione o dal Papa o dal suo messaggio, ma la devi conquistare tu nella tua coscienza col rapporto diretto con Dio. Questa è la cosa molto più difficile, significa ogni giorno sei responsabilizzato, magari oggi siamo tutti un po' più irresponsabilizzati, però la eredità etica in tutto il nord Europa, centro nord Europa, è proprio quella del comportamento responsabile. Non a caso nasce lì il movimento ecologista che ha cambiato le società, la responsabilità di pagare le tasse, perché il bene viene non fatto dalla Chiesa ma dalle nostre tasse verso i poveri, che vengono addestrati, istruiti a non essere più poveri. Help to help yourself è il motto. Dunque, queste sono tutte declinazioni di questa responsabilizzazione dell'individuo, mentre nei paesi a maggioranza cattolica, a dominazione papale, è rimasta la irresponsabilizzazione, e il Papa, tanto dice di lui, è uno stato permanente di essere minori rispetto alle grandi questioni della società. Dunque, questo è il punto fondamentale. Oggi in Germania abbiamo abbastanza gli stessi numeri di cattolici luterani, circa 35%. Non è più un paese a maggioranza luterana, ma la etica dei cattolici è luterana, così come la etica di molti. L'unica parte della Germania che è stata deresponsabilizzata, pensate un po' a questo, è la parte ex comunista, perché lì si era istituita una chiesa che decideva per te, che deresponsabilizzava di nuovo la gente, e lì hai adesso anche il movimento di gente che rimane deresponsabilizzata. Dunque la vera continuità è quella del cattocomunismo. Eccola, adesso mi è scappato. Ma è la sigla finale, perché è il motivo per il quale poi spesso questo Papa, per esempio, qui è presente, molto spesso non ci convince. Poi una parte di quella cultura della DDR si è stranamente impiantata in Italia, non so, è fuoriuscita. Quindi il muro non non era così impenetrabile. Ma qualcosa perché è uscito. Chiese di quel tipo ne avevamo non una, ma due nel nostro paese, che convergevano esattamente in ciò che, con tratti diversi, ma abbiamo messo insieme da Udo Gompel e Peter Church, è stata la nostra maniera per rendere il giusto, giustissimo e ancor troppo denegato merito ai riformatori. Al loro coraggio, al fatto che a volte quella eresia ha veramente cambiato il mondo. Perché bisognava cambiare una concezione della mediazione obbligatoria tra Dio e credente. Ma dove sta scritto di allocazione di risorse? Abbiamo visto di come dal basso si fanno le regole mercatorie prima del diritto positivo, della concorrenza, dell'individuo che diventa il vero ambito etico senza benedizioni dall'alto e senza vie di fuga, e quindi ancora più impegnativo. Dico, cos'è l'etica che deve fondare l'azione individuale e collettiva? Ecco, per noi queste sono cose. Grazie Martin Lutero, grazie Calvino. Gettò la tonaca, come diceva il poeta, getta la tonaca, un man pensiero. Ok, grazie ai nostri ospiti, noi torniamo tra un minuto. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, eccoci qui tornati, compari. Però abbiamo parlato un argomento alto e... E pare che sia piaciuto. E pare anche che sia piaciuto ai nostri ascoltatori, quindi per carità di Dio, lo so. No, arrivano complimenti, questo ci fa piacere. Strano perché che arrivino complimenti. Ci siamo presi un po' di rischio, oggettivamente, parla di teologia. Però insomma, grandissimi Peter e Udo sicuramente, però questo tema interessa gli ascoltatori, ci dicono, meno male che si parla di queste cose, è giusto anche un po' dissacrante, ma insomma ci sta a sfidare sul territorio della teologia però, reincarnata. Però noi ci dobbiamo tornare ponendoci dal nostro punto di vista. Ma com'è che Zonin è stato il punto di riferimento delle classi dirigenti lui, della regione tradizionalmente più cattolica italiana? Ma anche cioè, lui lì era una forma di cattolicesimo luterano venuto male. Ma quando mai luterano? Dai, cioè, ecco, me sono cose veramente... Io credo nella deriva di lungo periodo della storia, quindi quella roba del Veneto, come tutti abbiano potuto assumerlo come una specie di principe del sangue di fronte a cui mai elevare obiezioni, per me resta un mistero, non della fede, ma purtroppo della mancanza di fede. Allora, Renato Cifarelli, nostro imprenditore della compagnia, come stai, Renato? Bene, voi come state? Devi sapere che... Bene, eretici, oggi eretici! Oggi non vi ho ascoltato. Belle eretiche oggi! Però il podcast, per sentirvi parlare del Lutero. Lo so, che di Lutero, del Lutero adesso. ma che vantaggio, ma che battuta! Senti, lo sappiamo che stai come sempre lavorando, non c'è problema. Non abbiamo dubbi su questo. No, non sto lavorando perché mi sono preso 2 giorni di vacanza, perché cioè il lavoro per poi 4 weekend consecutivi... Diventa un po' troppo. Mi prendo 2 giorni di vacanza. E questa settimana però lo Stato devo guadagnare qualche punto. Ma no, ma te la sei presa perché punto fidanzato. Pensavo per pagare punto le fragola, tasse. No. Non è quindi perché lo Stato ne paghiamo. Non è perché lo Stato ti ha dato una mano sensazionale che non ti aspettavi, no, questa settimana. Questa settimana. Allora, una prima cosa, scusatemi, un po' magari un po' personale. Volevo ricordare Lorenzo Vallarino Gancia, perché una grossa parte della mia formazione è stata dei giovani imprenditori che lui ha fondato. Se non ci fossero stati i giovani imprenditori, molto probabilmente oggi la Confindustria sarebbe anche molto peggio di quello che è. E quindi, visto che è scomparso questa settimana, volevo ricordarlo. Ma hai fatto bene, perché hai fatto bene. È una cosa che Renato, per tu me... ieri ero al convegno che tu stesso hai fondato, proprio dei giovani imprenditori, a parlare di questo. Abbiamo parlato di passaggio generazionale, di conflitto. Io ho celebrato l'Edipo imprenditoriale, che deve uccidere il padre per impadronirsi della... guarda, su questo sfondi una porta aperta, perché io ho sempre sostenuto che fare il figlio di imprenditore devi uccidere il padre e devi avere il doppio del coraggio e della forza che ci vogliono per fare l'imprenditore normale, perché devi riuscire ad essere diverso e continuare quello che ha fatto tuo padre. Quindi è una cosa molto più complicata di quella di quello quindi, che la gente prima pensa. Era il ricordo e il ringraziamento. No, la seconda Gancia. Cosa invece è, visto che lo Stato è stato così magnanimo per la cultura, naturalmente, solo per la cultura, di fare una legge per cui una grossa parte, o perlomeno una parte ope legis di quello che viene trasmesso in televisione deve essere prodotto in Italia, mi piacerebbe che lo Stato facesse lo stesso in tutti i settori. E quindi quando lo Stato compra e fa degli appalti, comprasse delle macchine italiane invece di comprare delle macchine tedesche. Fai l'autarchico protezionista. Piccoli protezionismi crescono, vedi? Guarda. No, ma perché qui proteggiamo a seconda di chi ci lavora, capito? Cioè, se ci lavorano i miei amici, miei parenti, i miei cugini, ma non crederai, è una cosa alta. Ma non crederai che sia un caso la percentuale di voto per un partito politico nella cinematografia italiana che prende i sussidi dallo Stato? Siccome poi sono finiti i soldi per il credito cinematografico, no? Cinematografico passano direttamente alle quote imposte per sostenere la domanda. E questa è la cosa astutissima e pseudo francese che stanno facendo. Certo, ma la cosa, oltretutto, mi sembra assolutamente assurda, per il semplice motivo che quelle cose che sono state prodotte in Italia con un respiro internazionale hanno avuto respiro internazionale e hanno avuto il loro mercato a livello internazionale senza nessun tipo di problema. È inutile che noi ci ostiniamo a continuare a fare i giardinetti protetti. Perché coi giardinetti protetti non si va da nessuna parte. Renato, io ti ringrazio perché tu non lo sai, ma mi stai dando un argomento, una mano, perché ho fatto la trasmissione, naturalmente ho ricevuto proteste interne, perché ovviamente le lobby sono rappresentate. Allora, ma certo, non ho capito. Cioè, il ridicolo è che a dire questa prima la conosco bene. Ecco, a dire queste cose, uno pensa, Confindustria dovrebbe esserci. E invece sta diventando difficile anche qua. Però detto tutto questo, noi continuiamo a farlo. Sta diventando difficile perché, ahimè, e lo dico io, me ne prendo tutte le responsabilità, tanto al massimo mi buttano fuori, io risparmio qualche quota associativa. Sta diventando difficile perché purtroppo l'impressione che ho io è che le persone che vivono di mercato si stiano allontanando. Esatto. E le persone che vivono di rendita contrattata esercitano la rappresentanza. O comunque di diciamo cose per cui lo Stato ci può mettere lo zampino nel prezzo, nella distribuzione, nella legge, nelle cose, eccetera, sono ultimamente sovrarappresentate. Diciamo così. E lo dice uno che ha attualmente ancora incarichi in Confindustria, comunque in posizioni diciamo abbastanza importanti. Però molto spesso vedo un po' di lobby old style, cioè con la manina aperta. Ma poi, insomma, la mia idea di fondo, questo lo dico in termini generali, è che quando hanno deciso di mettere in Confindustria i grandi gruppi di Stato non si sono fatti bene i conti, perché lo Stato avrebbe esercitato attraverso chi li rappresenta, il presidente e i manager, tutta l'influenza di cui è capace, in un sistema in cui i grandi gruppi privati sono diventati di meno nel mondo, in cui le 5.000 multinazionali tascabili di Mediobanca sono la parte più redditiva, che investe di più, che esporta di più delle imprese italiane, ma non perdono tempo nella rappresentanza molto spesso, e quindi lo Stato con i suoi atteggiamenti collusivi di amici degli amici diventano sempre più difficili per gli attori privati sapere dire no grazie, e anzi sei il nostro nemico. E questo si vede dagli atteggiamenti sul fisco, alle banche, a temi come questi, cioè recinti autarchici che vengono premiati in alcuni settori. Grazie Renato Cifarelli, perché mi hai consigliato di dire una cosa che per me è molto dolorosa e difficile dire. Comunque grazie Renato, ma grazie a tutti voi. Ciao Carlo Alberto e Mario. Fanno sempre la parte di quelli capitati Carlo per Alberto caso. Carlo Alberto è scioccato dal consenso della puntata di oggi. Abbiamo decine e decine di messaggi. Ammettiamolo, siamo luterani noi qua dentro. Ciao.